tempo di sport. Amici di Radio 24, buon pomeriggio, benvenuti da Massimo Callegari. Una giornata dedicata a nuoto, ciclismo e calcio, naturalmente, con il Tour de France che affronta 5 colli alpini. Nell'appuntamento odierno c'è anche l'inedito Col de Rome dopo il successo di ieri di Astarloza con l'arrivo a Bourg-Saint-Maurice, con Pellizzotti che continua a dare segni interessanti di vivacità e mantiene la maglia Apoel, che non vinciamo il Tour dall'inizio degli anni 90, con Claudio Chiappucci. Il nuoto con la 10 km femminile nel fondo, che ci ha regalato il secondo bronzo dopo quello di ieri di Tania Cagnotto. Lo ha ottenuto Martina Grimaldi alle spalle della inglese Payne e della russa Sverzova, che ha preceduto la nostra rappresentante. La pallanuoto femminile ieri invece ci ha regalato emozioni, sì, ma sino a un certo punto, dal 5-3, le azzurre poi sono state prima raggiunte e poi superate dall'Ungheria, che ha vinto 8-5. Oro in giornata anche per la Spagna nel sincro libero combinato su Cina e Canada. Per la quinta volta l'Italia ha chiuso al quarto posto in questa rassegna iridata romana. Ieri pomeriggio, come ribadito, il terzo posto e la prima medaglia era arrivata con Tania Cagnotto. Ieri giornata sensazionale anche per il successo del 15enne Tom Daley nei tuffi dalla piattaforma 10 metri. Parleremo di tutto questo, anche di calcio, con alcuni aggiornamenti di mercato. L'Inter nella notte ha perso, quindi due pareggi e una sconfitta nelle prime tre uscite amichevoli dell'estate. 2-0 per il Chelsea di Ancelotti. Drogba in apertura e Lampard all'inizio poi del secondo tempo sul calcio di rigore. Ibrahimovic è entrato, come già accaduto con i messicani dell'America, a mezz'ora dalla fine, e si è infortunato anche a un polso, e in Spagna a questo punto più che in Italia temono una lesione, se non addirittura una frattura. Non c'è frattura invece tra l'Inter e Eto, sempre più vicine le due parti per completare questa operazione. Noi ci spostiamo proprio in Spagna, perché naturalmente il mercato di Barcellona e Real Madrid porta un'attenzione smisurata su questa sfida e su questo confronto per la prossima Liga, per le ambizioni delle due squadre in Europa, per capire però se il nostro campionato sul piano semplicemente tecnico, quindi tralasciando gli stadi fatiscenti, la violenza eccetera, è superato in maniera definitiva da quello spagnolo, o se c'è invece un livello medio che ci può dare ancora delle soddisfazioni. Siamo in collegamento con Amedeo Carboni, che a Valencia si è imposto, ha lavorato, ha vissuto, ha giocato e continua a vivere piacevolmente ora come grande osservatore attento e operatore nel mondo del calcio. Bentornato Amedeo, buon pomeriggio. Bentornato a te Massimo e bentornato a tutti. Dunque, dicevamo, ci sono alle spalle di Real e Barcellona realtà che si stanno muovendo con grande attenzione, e il Siviglia, ad esempio, secondo le parole di oggi dell'agente di Luis Fabiano Fuentes, dovrebbe trattenere il suo giocatore perché l'offerta del Milan è considerata troppo bassa. Siviglia, Atletico, Villarreal, Valencia nell'ordine dal terzo al sesto posto l'anno scorso. In questo momento qual è la loro posizione nella griglia di partenza? Rimane più o meno su quello che è successo nel campionato scorso, o alcune operazioni di mercato spostano i valori? Ma visto quello che diciamo, che i valori si potrebbero spostare dal terzo al quarto, dove quest'anno penso che l'Atletico Madrid potrebbe superare il Siviglia addirittura, però più o meno i valori sono sempre gli stessi. Le squadre che hai nominato rimangono sempre per la maggiore, rimangono sempre le outsider rispetto a Barcellona e Real Madrid, quindi è più o meno un po' come succede in Italia, anche se in Italia forse c'è una squadra in più ai vertici. Noi ne abbiamo tre: Inter, Milan e Juve, mentre diciamo in Spagna diciamo le due squadre sono più o meno blasonate, sono sempre le stesse. In Italia il Genoa ha lavorato moltissimo, come l'anno scorso, ma Gasperini l'anno scorso cambiò 12 giocatori nel corso dell'estate e fece ancora meglio poi nel campionato che abbiamo osservato con Milito e Thiago Motta alla grande. La Fiorentina ha ceduto a Felipe Melo, il Palermo ha trovato con Zenga grande entusiasmo, la Lazio sta lavorando con molti giocatori, troppi, e poi c'è la Roma con tutte le difficoltà che conosciamo, il Napoli. Questo gruppo di squadre sul piano tecnico, è chiaro che non è facile poi andare troppo nello specifico, però sul piano tecnico la media di questo gruppo di squadre è all'altezza, è superiore o invece concede qualcosa a quelle della classe medio-alta della Liga? Io ti dico una cosa, inferiore no, potrebbero essere, diciamo, l'inferiorità che non vedo dentro il campo, l'inferiorità è più a livello, diciamo, societario, no? Per il famoso regime fiscale che regna in Spagna, che sicuramente è un vantaggio notevolissimo per la Spagna, però in campo io credo che questa differenza non ci sia, mentre è purtroppo evidente per quanto riguarda la gestione, diciamo, finanziaria delle società, quello sì. Sì, questo si vede probabilmente, ma chiedo anche in questo caso la tua impressione, dal fatto che il Siviglia e l'Atletico Madrid, che sono appunto, come tu hai definito, squadre non grandissime ma comunque di alto livello, prima di privarsi di giocatori come Agüero, Luis Fabiano, che hanno comunque un mercato su cifre diverse, devono avere, ricevere veramente una richiesta che ne valga la pena, non sono indotte o costrette a vendere, come ad esempio poteva essere il caso del Valencia, che poi tratteremo tra un attimo. È così? Beh, diciamo che più o meno loro, le società a questo livello, mantengono sempre, le società che hanno nominato, un po' il coltello dalla parte del manico, quindi devo dire che ci deve essere un vantaggio notevole economico, a livello economico, per poter privarsi di certi giocatori che, ti ripeto, sono stati pagati. Non è che Siviglia non ha pagato niente Luis Fabiano, non è che l'Atletico Madrid, ricordo che l'Atletico Madrid ha pagato, ovviamente Agüero lo ha pagato 24 milioni di euro, non è che lo ha pagato più di quanto il Milan ha pagato Pato 2 anni fa. Sì, ecco, sì, è vero. Quindi voglio dire, perlomeno si aggira sulle stesse cifre più o meno, quindi devo dire che quindi a quel punto in questa stessa condizione vale. Loro hanno un regime fiscale che gli permette di trattenere i giocatori a livello economico, perché il giocatore lì guadagna molto di più rispetto in Italia. Sì. Pur spendendo la società allo stesso prezzo, all'ordo, al netto, al giocatore guadagna molto di più in Spagna che non in Italia. Quello che succede con Kakà e Milan, Kakà a Milan o a Real Madrid, la differenza era che le due società spendevano a livello economico gli stessi soldi, però fiscalmente a Kakà gli veniva molto più soldi che non rigiocando in Italia, rigiocando nel Real Madrid. Quindi la differenza è a favore del giocatore, non della società. Naturalmente telefonate come sempre all'800 24 00 24, messaggi sms al 349 238 6666, su questo tema e su altri, per capire in che condizione sono in questo momento, Amedeo, squadre che hanno un grande valore storico con epoche differenti in cui si sono imposte, però sul piano tecnico in questo momento Athletic Bilbao, Deportivo La Coruña, il neopromosso Saragozza, l'Espagnol sono realtà che si stanno consolidando, si sono migliorate. Il Saragozza, ad esempio, neopromosso, ha acquistato Carrizo dalla Lazio, Pennant dal Liverpool, Arismendi, che al Deportivo aveva fatto molto bene un paio d'anni fa. Sono realtà che si possono identificare comunque tutte come realtà simili per il valore storico che hanno, o ci sono delle differenze sostanziali nella gestione attuale di questi club in Spagna? No, io credo che le società che hai nominato, io credo si equivalgono un po' alle nostre, no? Lazio, Napoli, società sì, che hanno avuto, come hai detto tu giustamente, in certi periodi della loro storia degli allori, hanno avuto veramente delle stagioni dorate, e si sono ritrovate negli ultimi anni casomai con difficoltà o economiche o, diciamo, anche sportive, però che mantengono sempre a livello di impatto con i giocatori, mantengono sempre quel grande blasone che hanno sempre avuto le società. Perciò direi che ritornando in Serie A e recuperando certi valori hanno ripreso quello che un po' la storia gli aveva tolto, quindi rimangono società importanti, società ambite dai giocatori e che si equivalgono un po' alle nostre, diciamo, seconde linee italiane, senza dubbio. Liga che peraltro ha perso sul piano storico al termine della scorsa stagione il Real Betis di Siviglia, che è retrocesso nella seconda divisione nazionale. Come sta il Valencia in questo momento? Perché si era parlato molto, soprattutto nel corso della primavera avanzata, dell'inizio dell'estate, di un club che aveva necessità di vendere i suoi migliori uomini. In particolare la trattativa con il Barcellona per Via è stata molto avanzata. Lui addirittura pare avesse dichiarato di essere disposto a pagare qualcosa pur di andare al Barcellona. Il club ha confermato che gli aveva detto: c'è un'offerta per te, poi le condizioni sono cambiate. In questo momento il Valencia come sta sul piano societario? Ma io mi, così da fuori, volontariamente non vorrei fare paragoni che potrebbero sembrare fuori luogo, assolutamente, però più o meno, stando con un piede in Spagna e un piede in Italia, mi metterei nella stessa posizione della Roma, diciamo, il Valencia, sì. Forse con un deficit più forte il Valencia, però anche devo dire con un patrimonio, diciamo, immobiliare molto più importante rispetto alla Roma, quindi devo dire che più o meno si equivalgono. Sono due società che non hanno in questo momento grande potere d'acquisto, però sì che hanno grande potere a livello mediatico, lo mantengono sempre, quindi devo dire rimangono due grosse società, però è vero che forse a livello, come ti ho detto prima, di potere d'acquisto hanno perso, perché le disponibilità economiche non sono tante, perché sai, le banche stanno sempre dietro. Hanno, nel caso del Valencia, io non conosco il tema della Roma se non attraverso i giornali, però nel caso del Valencia le banche hanno dato tanto, quindi hanno paura di dover ridare un'altra volta senza rientrare. Ecco perché il caso Viglia sembrava che dovesse concludersi con una vendita, però alla fine non è successo, perché insomma svenderlo non sarebbe stata la maniera giusta, perché credo che Viglia rimanga veramente un campione. Per chiudere, Real Madrid e Barcellona. Il Real innanzitutto ha acquistato grandissimi giocatori, lo stesso Benzema, che è arrivato un po' dopo con meno riflettori su di sé, ma ha un potenziale spaventoso, l'ha fatto intravedere per quanto vale il test anche nella prima amichevole in cui ha segnato. È una squadra che, grazie anche all'esperienza del suo allenatore Pellegrini, grazie all'arrivo di un difensore centrale come Albiol, che tu hai conosciuto molto bene a Valencia, può avere l'equilibrio necessario per essere ai massimi livelli anche in Europa, o rischia di tornare a essere una replica del Real dei Galacticos con tante stelle iperoffensive, grandi goleade, però alla fine non tanti risultati sul piano concreto, soprattutto dal 2002 in poi? Ma però vedi, se ci pensi bene, quanto vorrebbe dire, no? Quanto vuol dire come raggiungere un livello mediatico come il Real Madrid? Nessuno si ricorda che ai tempi di Florentino Perez non hanno vinto niente, voglio dire. Eppure è stata la migliore epoca che la gente si ricorda. Ecco. È incredibile, no? Praticamente quello cosa vuole la gente? La gente, sì, è chiaro che vuole vincere, però l'importante è fare quello che fa il Real Madrid. La gente vuole i grandi nomi. Tu sai benissimo, come moltissimi, diciamo, ascoltatori che piace lo sport sanno benissimo, che alla conferenza di Kakà c'era 50.000 spettatori, a quella di Ronaldo ce n'era 90.000, sì. Benzema che si è implementato, però ce n'era quasi 30.000. Ecco, quello non si riesce a capire realmente cosa vuole la gente. Però devo dire che, anche se è vero che ancora gli manca un paio di giocatori, un paio di titolari, di cui uno è un centrocampista, che stanno facendo di tutto per portarlo, che è Xavi Alonso dal Liverpool, stanno facendo di tutto per portarlo, c'è già l'accordo col giocatore, però chiaro, Benitez, che è uno spagnolo, a questo punto ha puntato i piedi dicendo no, non penserete di prendervi Xavi Alonso con 30 milioni, sì. No, 30 no, dovete dare almeno 40, quindi prezzi degli altri giocatori, capite? Quindi Amedeo, però a livello non so se succederà come è successo nella prima tappa di Fiorentino, però altri due giocatori loro hanno bisogno, secondo me, per essere ai livelli del Barcellona. Seconda parte di A Tempo di Sport, parleremo tra un po' di nuoto. Vi segnalo però che ci sono dichiarazioni pesanti da parte di una Laura De Renzis, che l'ANSA definisce infuriata e delusa. È il commissario tecnico dell'Italia del sincro, quarto posto, dice: sono furibonda, È un quarto posto che brucia molto, ci credevamo, siamo andate meglio di ieri e quella del Canada. Non mi è sembrata una grande performance, Canada che ha vinto il bronzo davanti alle nostre azzurre in mattinata. Bronzo invece per Martina Grimaldi nella 10 km femminile di fondo. Chiudiamo il collegamento con Amedeo Carboni, che ringrazio per essere rimasto ancora qualche istante con noi, per chiederti rapidamente che tipo di giocatori e di personaggi arrivano in Italia con Eto'o, Haleb, come si possono integrare con gli acquisti che ha già fatto l'Inter e con le caratteristiche di gioco di Mourinho. Ma cominciamo da Haleb. Io credo che Haleb era un giocatore che già l'Inter voleva due anni fa, voleva sui ordini, perché se non mi sbaglio di aver letto, di aver saputo, insomma, che a Marco Branca piaceva molto, a Marco un po' tutto lo staff dell'Inter, che però proprio sicuramente per il regime fiscale fu soffiato dal Barcellona, quindi un ritorno in fiamma su un giocatore che piaceva già. Ora però c'è il dubbio che un giocatore che sinceramente è un giocatore di grandissime qualità, però un po' freddino, nel senso sì, che è un giocatore che non si sa se non si riesce o si riesce poco a riscaldare, e quello mi crea dubbio, perché il calcio italiano dopo l'affare di Quaresma mi lascia qualche dubbio se potrebbe essere un campionato migliore per lui o doppio. Però il calcio è bello, perché nessuno conosce mai quello che succederà domani, quindi per l'amor del cielo non voglio essere di cattivo, diciamo, augurio per l'Inter assolutamente. Per quanto riguarda l'Eto'o, devo dire che è goleador, più goleador di Ibrahimovic senza dubbio, è un giocatore che, insomma, basta guardare un po' gli ultimi numeri. C'ho il dubbio del fatto che si assomiglia molto a Milito, nel senso che è una prima punta che si muove, non è una prima punta statica, però si assomiglia molto a Milito, per ognuno con le sue caratteristiche, però si assomiglia molto in questo senso. Quindi il dubbio di questa coppia mi rimane dal fatto che sono due giocatori simili, mentre sicuramente Milito con Ibrahimovic avrebbe fatto meglio, e non ti dico Ibrahimovic e tu cosa avrebbero fatto. Grazie Amedeo, a presto. Grazie a voi, ciao Massimo. Grazie da Amedeo Carboni, sempre un piacere parlare con lui di calcio spagnolo e internazionale. Ci sono un po' di messaggi SMS al 349-238-6666 con una richiesta da parte di un ascoltatore che si firma Antonio da Brescia, che aveva già scritto ieri con la stessa domanda appunto. Per lei chiede: Mourinho comincia la stagione con l'Inter? Beh, a questo punto, insomma, direi proprio di sì, nel senso che per come hanno lavorato e per come lui si sta anche nascondendo rispetto a tutte le richieste di stampa per evitare di dare commenti che possano essere travisati o essere interpretati in maniera differente da quanto lui vorrebbe, per tutte queste ragioni, per il fatto, insomma, che gli è appena stato rinnovato il contratto, anche se sappiamo che all'Inter questo non, in assoluto non è una garanzia di permanenza per gli allenatori, certamente rimane, anche perché era stato, non dimentichiamolo, in ogni caso assunto all'inizio della stagione scorsa per un progetto di 3 anni previsti dal suo contratto. I primi ascoltatori all'800240024, Antonino da Bari, buon pomeriggio. Pronto? Pronto, prego. Per cortesia, volevo sapere gli acquisti del Palermo. Sì. Sono cieco e sordo quasi, quindi questo è uno dei motivi per cui telefono. Secondo, per quale motivo parlate sempre, io ascolto sempre la vostra radio da 10 anni anche più, e parlate sempre Milan, Inter e Juventus, stop, chiuso. Le altre squadre sembra che quasi non esistono, ogni tanto tangenzialmente ne toccate qualcuna. Tutte, no, e anche ieri avete un altro ascoltatore vi ha posto la stessa domanda, e qualche mese addietro un'altra ancora, e una preghiera: avete fatto il venerdì la palla a spicchi, fate la palla per gli italiani che al di là delle primi contrafforti degli Appennini, per cortesia. Va bene, seguiremo tutta Italia. No, certo, no, seguiremo le vostre richieste, ma lo facciamo già, dipende poi voi da quanto, quando e quanto ci seguite, perché anche poco fa ad esempio abbiamo accennato a tutte le squadre che stanno lavorando alle spalle palle delle grandi, però purtroppo non sempre l'attenzione vostra è massimale o non sempre c'è possibilità di incrociare e incontrare i vostri interessi. Chiedeva degli acquisti del Palermo. Il Palermo ha lavorato soprattutto sul mercato sudamericano, ha acquistato un centrocampista offensivo che si chiama Bertolo, che è argentino, da una squadra di medio livello che è il Banfield, e un altro giocatore molto promettente che è un trequartista, si chiama Pastore, arriva dall'Huracan, che quest'anno ha fatto molto bene nel campionato argentino, è arrivato al secondo posto, ha perso in pratica l'ultima giornata il campionato. Se ne sono andati altri giocatori come Guana e come Raggi in prestito, ma nella sostanza la rosa è quella dell'anno scorso, con Liverani però che è infortunato, salterà la prima fase di stagione. Zenga ha detto tutti dovranno prendersi un po' più di responsabilità rispetto al solito per ovviare all'assenza di questo giocatore, che è sempre stato fondamentale nel Palermo con i vari allenatori che si sono succeduti, e lo era anche a Firenze, se ne sono accorti soprattutto quando se n'è andato. Paolo da Padova, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, salve. Prego. Una domanda, sì, sì. Non sento parlare quest'anno del calendario di Serie A. Sì, cioè, non... 29 luglio. Ah, 29 luglio, bene, sì. Allora sì, perché sì, era l'occasione un po' per anche organizzarsi, magari trovare qualche amico in trasferta con una sana amicizia e passione. Mi associo comunque a quello che ha detto Antonino prima, dovreste dare qualche informazione in più su Palermo, Genoa, Fiorentina, Napoli, perché comunque anche se la gente non vi chiama, vi ascolta, vi ascoltiamo in tanti. E un saluto particolare affettuoso a tutti i tifosi del Padova per il loro rientro in Serie B. Bentornati. Li saluto anch'io, anche se insomma la mia SPAL quest'anno non ha fatto un brutto scherzo, perché eravamo lì in lotta in questa annata. Però il Padova, che peraltro avevo visto all'Opera a Cesena, e era stato sconfitto lì, sembrava forse il momento in cui doveva abbandonare ogni aspettativa e ogni speranza di raggiungere i playoff, poi si è ripreso molto bene, ha fatto un grande finale e meritatamente è tornato in Serie B. Chissà se mai tornerà anche l'atmosfera della Piani alle Euganeo, è difficile, probabilmente insomma è solo questione di ambientarsi in un contesto molto diverso da quello storico del calcio padovano. Raimondo da Udine, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei. Senta, io ascolto volentieri la vostra trasmissione quasi tutti i giorni, diciamo, no, in linea di massima. Sì. Ecco, prima mi ha dato un po' fastidio il fatto che nel paragonare le seconde linee spagnole alle seconde linee italiane sia stato citato il Napoli, il Genoa, la Lazio. E non l'Udinese. E non l'Udinese, ma mi scusi, No, ha ragione, però questo lo faccia la Gazzetta dello Sport, no, per motivi di bacino d'utenza. Ma l'Udinese c'ha 4 nazionali italiani, adesso uno di meno perché Quagliarella è andato al Napoli. Sì. È stata l'unica vendita della squadra. Gli altri sono tutti nazionali, è la squadra più giovane del campionato. No, ma lei ha ragione, il discorso è che non sempre quando si fanno delle citazioni di gruppi di squadre ci si ricorda di tutte in ogni momento, quindi lei ha ragione, io chiedo venia per questo, però non era una dimenticanza voluta, non era un modo per oscurare quello che ha fatto l'Udinese, per carità, nel senso che è una delle squadre che sono nella seconda fascia del nostro campionato, è stata la migliore l'anno scorso in Europa, però abbiate pazienza, non è che ogni volta in cui si parla e si nominano delle squadre si possa e si debba nominare tutto il gruppo delle squadre, si va a volte così anche per capacità e modalità di sintesi a ricordare un paio di squadre che sono esempi per quello che si vuol dire, quindi l'Udinese sta lavorando molto bene, ma già l'anno scorso avevo avuto modo di ribadire questo, avevo avuto modo di sottolineare come fosse molto indicato l'acquisto di Alexis Sanchez, che era allora molto giovane ma avevo avuto possibilità di seguire nel campionato sudamericano. Come vedete, quando se ne parla poi si va anche in profondità, però ripeto, non sempre ci si incontra in tutti i momenti con le vostre esigenze, ma è logico che voi abbiate spazio anche per ricordarcele. Pier da Torino, si lamenta anche lei oggi, buon pomeriggio. Sì, assolutamente sì. Prego, dica. Niente, io sono juventino, sto seguendo praticamente le vicende della squadra della Juventus, soprattutto quelle della dirigenza. Sì. Dirigenza, nello specifico dirigenza CDA, dirigenza direttore sportivo, nel merito diciamo degli acquisti. Sto leggendo stamattina sui giornali un potenziale scambio tra Trezeguet e Boriello. Ma io mi chiedo, ma come mai non avevamo pianificato la linea verde? Come mai non leggo scambio Paloschi Trezeguet piuttosto che Paloschi più un altro giovane del Milan? Lasciamo scegliere a chi ha effettivamente conoscenze, e Trezeguet. Ma sarebbe già importante che giocassero quelli giovani che sono in rosa. Assolutamente sì, assolutamente sarebbe sì. Già un passo avanti, perché tra l'altro c'è un nostro ascoltatore che scrive già da qualche giorno, Enzo da Varese, chiede appunto se non sia meglio mandare in prestito Marchisio, De Ceglie, Giovinco, perché poi arrivano spesso giocatori che vanno un po' a oscurare i loro ruoli. Lo stesso Felipe Melo gioca in una posizione molto simile a quella di Marchisio e Diego in quella di Giovinco. Prego, se vuole concludere. Sì, assolutamente, anch'io confermo, mi spiace non aver riscattato Criscito, mi spiace non aver dato eventualmente qualche giocatore di vecchia fascia come Camoranesi, come Zebinà, come Del Piero, per far spazio a questi giovani, per far spazio anche a Marchionni, che si era comportato benissimo lo scorso anno. Sì, probabilmente non era una delle scelte principali. Quella di Marchionni forse sul piano tecnico si può anche comprendere, perché è stato considerato arrivato ormai per la sua maturazione, quindi per competere ai massimi livelli era necessario un salto di qualità ulteriore. Però al di là di questo, il discorso sui giovani è comprensibile. Probabilmente l'anno scorso, se non ci fossero stati anche alcuni infortuni, alcuni momenti di difficoltà, alcuni giocatori avrebbero giocato addirittura un po' meno. Però è chiaro che servono anche delle alternative, si giocano tantissime partite, è un discorso ampio. Sui giovani si può lavorare meglio, con maggiore intensità. Quanto allo scambio tra Trezeguet e Paloschi, quello sarebbe un po' paradossale se verrebbero diversi denari per compensare il valore dei due giocatori, come anche tra Trezeguet e Boriello. Insomma, ci sono delle differenze tecniche e numeriche, al di là dell'età, favorevole al milanista, che sono molto chiare. Bentornati con la terza parte di questo appuntamento, con tour e nuoto anche in scaletta. Ci sono dichiarazioni di Lance Armstrong, che ha detto all'Equipe: nel 2010 sarà tutta un'altra storia, penso che sarò più forte e non sento il peso dell'età. Nel 2010 correrò con Bruinel o con nessun altro, cambierà squadra Armstrong. E poi ha detto, riferendosi alle dichiarazioni di Contador, replicando a quelle: se nel 99 fossi stato in squadra con Indurain, che aveva 35 anni, avrei considerato lui il mio leader, perché Indurain è una leggenda. E dunque Contador dovrebbe fare un po' lo stesso con Armstrong, che si autodefinisce una leggenda avendo stravinto con una continuità impressionante il Tour de France negli anni scorsi, essendo tornato ancora ad alti livelli. Vi ricordo il bronzo in mattinata di Martina Grimaldi nella 10 km femminile di fondo di nuoto. Ci sono alcuni messaggi all'800 24 00 24. C'è chi chiede anche un pensiero sull'espulsione e la reazione di Amauri in amichevole. Non saprei, nel senso che i filmati, i commenti che sono arrivati sono molto, molto frammentari, non danno un quadro totalmente completo per dare un giudizio su un episodio di questo genere, che, per come è stato raccontato, peraltro sembra stato piuttosto rude per la modalità con cui Amaury è intervenuto, per come ha agito nei confronti dell'avversario del Vicenza, per come se n'è andato con un gestaccio nei confronti del pubblico e per come, secondo alcuni, rischia addirittura una squalifica e non solo una multa, perché l'espulsione in amichevole comporta solitamente una multa nel corso dell'estate, ma in questo caso ci sarebbero condizioni più gravi che porterebbero a una assenza in una partita ufficiale. Torneremo a parlare con voi all'800 24 00 24 tra un po'. Ora ci concentriamo sul Tour de France, che vi ho introdotto con queste dichiarazioni di Armstrong. Piero Augusto Stagi, sulle strade del Tour, bentornato. Ciao, buon pomeriggio a tutti. In questo momento la situazione in questa tappa con 5 colli alpini com'è? Abbiamo intanto già fatto 2 colli alpini, ne mancano ancora 3, ci sono ancora 100 km da percorrere, quindi il cammino è lungo. C'è un uomo solo al comando, la sua maglia è verde, quella della classifica punti, è un velocista, è norvegese, si chiama Thor Ushov, che è andato in fuga proprio sulla seconda cotta di prima categoria per portarsi avanti e cercare di guadagnare dei punti del traguardo volante proprio per incrementare il suo vantaggio per la classifica punti, perché all'interno della corsa ognuno ha la sua corsa, ognuno ha le sue motivazioni, i suoi obiettivi, i propri sogni, e quindi un modo anche per avvantaggiarsi e portare fine in cascina e quindi distanziare Mark Cavendish, che allo sprint è assolutamente imbattibile, e con 4 vittorie in questo tour, cosa pensa Thor Ushov, che al momento è il leader di questa classifica? Vado in fuga in montagna e cerco di portare a casa dei punti dei 2 traguardi volanti che sono disseminati lungo il percorso, e adesso tra poco dovrebbe affrontare il primo traguardo volante e porterà a casa dei punti, e poi ce ne sarà un altro ancora più avanti dopo il terzo colle, quindi sta facendo, diciamo, tra virgolette, una impresa. Alle spalle di questo norvegese c'è invece un gruppo di 21 corridori con 2 corridori italiani, c'è dentro Marzo Bruseghin e Franco Pellizzotti, la maglia Pua, che ha già incamerato punti preziosi per la sua maglia, e credo che al 99%, se non succederà nulla, quindi tocchiamo ferro e auguriamo tutta la fortuna del caso a Franco Pellizzotti, dovremmo avere a Parigi almeno un italiano sul podio, e sarà Franco Pellizzotti che dovrebbe vestire la maglia Pua, perché ormai il suo vantaggio sul secondo è quasi incolmabile. Credo che sia ancora un gran premio della montagna e il suo vantaggio sarà matematico. Senti, Piero Augusto, nella tappa di ieri ci ha proposto proprio Pellizzotti, sempre in grande spolvero nella parte iniziale e non solo, ha proposto Contador, che si è confermato leader, e Armstrong, che ha preannunciato di sentirsi già pronto per un 2010 ancora migliore per il suo rendimento, con un'altra squadra e con Brunel che lo seguirà. Che cosa comporta questa nuova scelta del ciclista statunitense? Ma la comporta che intanto c'è una nuova squadra, una multinazionale che dovrebbe essere annunciata domani, voci da tour dicono che dovrebbe essere una grande casa automobilistica, e vedremo se le notizie, questo gossip, questi rumors saranno poi accreditati dall'ufficializzazione di domani. Per il resto oggi intanto c'è ancora una tappa molto difficile, forse la tappa più difficile del tour insieme a quella di sabato al Mont Ventoux, questo è il cosiddetto tappone a tutti gli effetti, e intanto c'è una vittima, l'ennesima, che ormai, anzi, io non so se riuscirà ad arrivare a Parigi, che è Cadel Evans, che sta perdendo, è isolata addirittura nel gruppo con Mark Cavendish, è staccatissimo, è staccato subito dopo neanche 10 chilometri sulla prima salita sul Roseland, e invece gli altri, tutti i big, tutti gli uomini di classifica, appunto da Alberto Contador con Armstrong, con Bradley Wiggins, con il nostro Vincenzo Nibali, sono al momento a 5 minuti da Thor Ushov, si stanno controllando, sarà un lungo e continuo e estenuante logoramento, e probabilmente la scorsa esploderà sul Col della Colombière, che è l'ultima vetta posta proprio a 15 km dal traguardo, 15 km che però sono in discesa, quindi chi saprà fare la selezione su questa salita di prima categoria estremamente selettiva sicuramente riuscirà poi ad arrivare al traguardo. Nel frattempo, per chiudere anche il racconto di quanto è accaduto ieri, sempre con un occhio a quanto sta invece avvenendo in questi momenti, sta meglio il tedesco Jens Voigt, che era caduto ieri, i medici dicono lo ha salvato il casco, senza quello avrebbe avuto sicuramente conseguenze peggiori. Abbiamo parlato degli italiani, Piero Augusto, per chiudere Pellizzotti ma anche Nibali, in questo momento il nostro bilancio qual è? A oggi, oggi il bilancio italiano è quasi sorprendente. Non abbiamo vinto nessuna staffa, ma siamo stati protagonisti per 2 settimane e mezzo. Siamo venuti qui veramente con 15 corridori, nessun big, un ragazzo molto giovane come Nibali, che l'anno scorso è arrivato 20° a 25 minuti da Carlo Sastre e che si era posto come obiettivo quello di maturare e perlomeno centrare l'obiettivo della top 10. Beh, in realtà ci troviamo con 8 giorni in maglia gialla con Rinaldo Nocentini, un Vincenzo Nibali sempre nel vivo della corsa e attualmente sesto in classifica generale, con sogni neanche strampalati di podio per Parigi, con un Franco Pellizzotti, come ho già detto in precedenza, che porterà quasi sicuramente a Parigi la maglia di miglior scalatore di questo Tour de France, e un Pellizzotti che cercherà in tutti i modi poi di coronare il sogno di una vittoria di tappa. A oggi è riuscito a ottenere un secondo, un terzo, un settimo posto, gli è sempre sfuggita la vittoria, però non si può dire che il bilancio italiano non sia più che lusinghiero. Grazie per Augusto Stagi, ti ritroviamo naturalmente nei GR24 e nelle prossime giornate di A Tempo di Sport. Ci sarà occasione tra cronometro e Mont Ventoux nei prossimi giorni per risentirci. A presto, buon tour. Grazie. Grazie per Augusto Stagi dal Tour de France, con Ushav ancora in fuga 5:28 sul gruppo della maglia gialla, con tutte le caratteristiche di giornata della fuga solitaria di cui vi ha parlato poco fa Pier Augusto Stagi. 94 km al traguardo, altri ascoltatori all'800 24 00 24. Carlo da Genova, buon pomeriggio, prego. Salve, buon pomeriggio. Senta, poi io sono un tifoso genuano, sì, da una vita, 40 anni abbonato da sempre, ho visto di tutto e di più. Faccio questa premessa perché tanto volevo fare in bocca al lupo per la tua spalla, perché crepi il lupo, ce n'è bisogno, con Bazzani poi il prossimo anno, Sì, a prescindere da Bazzani, che no, più che altro meritereste danni, altri palcoscenici per la tifoseria, invece siete purtroppo sempre stati un po' sfortunati. Ricordo una volta ci regalaste una salvezza l'ultima giornata, 45 gradi, ci scioglievamo il ghiaccio sulla testa, io ero presente, l'ultima di campionato, 0-1, gol di Damiani, noi salvi dalla C, vabbè, comunque bellissimo questo. Niente, volevo rubare troppo spazio, prego, prego. Agli altri ascoltatori, esprimere la grande felicità che stiamo provando noi genuani in questo momento qua. L'anno scorso abbiamo vinto 2 derby, battuto la Juve, pareggiato a Milano, cioè abbiamo fatto delle cose veramente che per noi sono fantastiche. Abbiamo una società veramente di primo livello, con Preziosi e Gasperini veramente competenti di calcio, dove fanno le cose giuste sia come società che come squadra, e siamo veramente strafelici. Io personalmente, soprattutto per il presidente Preziosi, perché ne ha patito, ha sofferto tanto e sta raccogliendo un po' tutto quello che anche poi seminato in seguito, anche magari a possibili o discutibili errori di certe cose. Senta, lei è un po' di parte naturalmente, però credo sia anche obiettivo. I rapporti di forza tra Genoa e Samp in questo momento come sono, dopo le operazioni di mercato dell'una e dell'altra squadra, come sono percepite in città? Ma io ritengo che già l'anno scorso si è dimostrato quei 22 punti in più, e noi adesso stiamo un po' correndo su un livello leggermente superiore. Chiaramente c'è anche questa voglia da parte della tifoseria che spinge molto il presidente a fare sforzi anche forse leggermente maggiori rispetto a quello che potrebbero essere le sue possibilità, però perché proprio c'è anche questo background che bisogna non si può negare, cioè la Sampdoria nei tempi passati è sempre stata molto più voglio dire, ha ottenuto risultati migliori dei nostri, quindi sicuramente questo momento qua ce la stiamo un po' godendo noi, diciamo, tra virgolette, e quindi sicuramente ecco, siamo veramente contenti. Benissimo. Dovremmo essere superiori anche il prossimo anno, però sa, e poi specialmente nei derby noi non diciamo mai niente perché ne abbiamo persi tanti anche in maniera abbastanza clamorosa, quindi dico, comunque è sicuramente anche la Samp una buona squadra, noi riteniamo forse di essere un tantino superiori anche quest'anno, però è tutto da vedere, perché comunque certo, i bravi certo, li abbiamo venduti. Infatti volevo tranquillizzare i tifosi dell'Inter, che ce n'è tantissimi in ascolto, che so che abbiamo veramente Thiago Motta e Milito, sono davvero due fuoriclasse che se non avranno problemi fisici sicuramente faranno fare la differenza. Benissimo, tanto che questo grazie. Questo acquisto di Eto'o non lo so, spero che non calpesti i piedi a Milito e che comunque se poi non gli dovesse servire, noi a gennaio siamo pronti a riprendercelo perché con la maglia dell'Inter non lo vediamo proprio, però nel senso, per carità, il mercato è questo. Grazie Carlo, grazie. Ultima parte di A Tempo di Sport con altri ascoltatori in linea all'800240024, alcuni messaggi al 349-238-6666 di milanisti che non vogliono assolutamente Trezeguet, di juventini che avrebbero voluto D'Agostino, non Felipe Melo. Il bello del essere tifosi e dell'estate in cui si sogna e ci si può anche lamentare per quello che fanno o non fanno le proprie squadre di riferimento. Andrea da Livorno, buon pomeriggio. Buonasera, buon pomeriggio a lei. Io volevo avere la sua opinione relativamente alla frase detta da Spinelli sull'eventuale acquisto del nostro gioiellino diamanti da parte del Milan in caso di una partenza particolare del Milan. Secondo lei si riferiva a Pirlo o a Pato? Perché come sostituto forse è una via di mezzo tra tutti e due. Mi aggiorna esattamente sulle dichiarazioni di Spinelli, quali sono state nel... Sono state che ha trattato il diamanti con Livorno, però o per il prossimo anno oppure quest'anno, solo in caso di una partenza particolare da parte di qualche giocatore del Milan. Sì. Ora, Diamanti è un grande, deve dimostrare tutto, però Livorno sinceramente l'abbiamo visto da 2 anni e ha i numeri veramente per essere fra i primi 20 giocatori in Italia. Però ecco, non mi sembra né Pirlo e né Pato come ruolo, lungi dal volerlo paragonare dal punto di vista, diciamo, tattico. Sì, come caratteristiche, dice lei. Come caratteristiche. E poi chiudo dicendo allineandomi a quel genuano di prima, che anche a Livorno stiamo vivendo una estate favolosa. Sì. Sia per la Serie A sia per le disgrazie del Pisa. Non me ne voglia, però è così. Buonasera. Buonasera, buonasera. Ma niente, su questo naturalmente sono rivalità vostre e ve le lascio finché rimangono così su questo livello ironico, va benissimo. E quanto a Diamanti, avevo letto di una valutazione di 12 milioni quando si era parlato di un interessamento eventuale da parte dell'Inter, era effettivamente evidentemente una valutazione spropositata rispetto anche ai valori di mercato attuali, anche se è sempre vero che si considerano molto le spese che vengono fatte per i grandi acquisti con decine e decine di milioni spesi, poi magari si va a vedere che giocatori di livello medio o medio alto hanno delle quotazioni che incidono comunque molto alla fine sui bilanci delle società. Quanto al Milan non saprei sinceramente dove potrebbe giocare, anche perché credo che in questo momento non lo sappia neanche Leonardo, né dove potrebbe mettere Diamanti o uno con le sue caratteristiche, né se avrà ancora Pirlo. Quanto si dice da parecchio, insomma, l'offerta del Chelsea arriverà e il Milan la prenderà in grande considerazione, né Leonardo sa chi avrà davanti, se Luis Fabiano, Trezeguet, ho visto che gli si sono illuminati gli occhi quando gliel'hanno nominato, o qualcun altro. È tutto da vedere, non è facile per lui costruire la squadra in questo momento, come qui chiudo questa osservazione, non sarà semplice per Ferrara, che sta lavorando senza Diego dall'inizio del ritiro, perché sta lavorando da solo con una fase di muscolarizzazione, così viene detto, senza Sissoko, che è di nuovo fermo. Questa conferma del fatto che nessuno inventa nulla ormai, neanche nella scienza medico-sportiva, e anche chi arriva come novità nei vari staff medici e preparatori atletici alle difficoltà che avevano coloro che lavoravano prima di lui, anche se i metodi sono diversi o opposti, e avrà difficoltà pure Mourinho ad allestire una squadra già pronta ed equilibrata all'inizio del campionato, perché dovrà inserire Gleb, dovrà inserire Lucio, dovrà inserire Tau, i grandi giocatori ci mettono poco a inserirsi insieme. Però vediamo con Antonio D'Amanto a velocissimo. Sì, buongiorno. Buongiorno, prego. Sì, no, il mio è molto breve, era solo in riferimento al suo appello, all'appello che ha fatto lei che c'è poco interesse verso altre squadre che non siano Inter, Milan o Juventus. Non è che ci sia poco interesse, se si parla poco di queste squadre automaticamente si interviene poco. Io sono un appassionato del Napoli, sì. Se si parla del Napoli magari intervengo, ma se si parla di Inter, Juve o Milan posso essere d'accordo o posso non essere d'accordo, però non intervengo perché la cosa... Sì, ma i temi sono introduttivi, poi come sai, come vede, poi c'è spazio per tutti. Se lei adesso ha volontà e interesse a parlare del Napoli, lo faceva molto volentieri, solo con un'esigenza di tempo perché poi c'è il nuoto, però prego. No, no, ma su Napoli non è che ho molto, era in riferimento al suo appello che ho fatto. Poi del Napoli io sono contento di come stanno andando le cose, delle gestioni di De Laurentiis e tutto e via dicendo. Era benissimo. Soltanto una risposta al suo appello, che ci sono state delle trasmissioni che si parlava soltanto di alcune squadre, non si parlava degli altri, ma non perché non c'è interesse verso altre squadre, perché se non se ne parla io non è che intervengo per dire parlate dell'Inter, io interrompo per parlare del Napoli. Va bene, questo era un concetto molto chiaro, ma avevamo già intenzione di parlare, lo faremo ancora anche domani su questi temi. Ora il nuoto. Nissan City Cars, welcome to simplicity. Vi presenta Roma 2009, mondiali di nuoto. Subito a Roma con il nostro inviato Dario Ricci. Dario. Sì, buongiorno Massimo, vi parlo dal Lido di Ostia. Stamattina è arrivato lo splendido bronzo di Grimaldi nella 10 km donne, vinta dalla inglese Payne davanti alla russa Seliverskova. Ma stiamo vivendo in questi istanti l'arrivo fra una decina di minuti della 10 km di uomini, c'è il nostro Valerio Cleri protagonista, ne parliamo con un ospite graditissimo, Luca Ferretti, ieri quarto per pochissimo nella 5 km. Luca, Valerio, gara di testa, e cosa può accadere a questo punto? C'è l'Urz lì vicino, il grande favorito, che situazione tattica c'è in acqua? Allora, Valerio, stranamente questa volta abbiamo visto fare una gara di testa, però l'Urz ha fatto una 5 km ieri tirandola, quindi un po' di stanchezza la pagherà. Valerio deve buttare giù la testa e dare il 100% in quest'ultimo tratto, e ormai ci siamo, deve resistere ancora poco. Un mare un po' più mosso rispetto sia a ieri che a questa mattina. Valerio in queste condizioni si trova, direi, piuttosto bene, vero? Sì, Valerio poi è un nuotatore molto potente. Vabbè, si sa, il pomeriggio il mare si increspa un po' di più. Comunque non mi sembra abbia grossi problemi, ecco. Cioè, ora si è rimesso un'altra volta in testa, quindi deve resistere ancora pochissimo. Bene, grazie a Luca Ferretti. Stiamo vedendo proprio in diretta questi momenti decisivi della gara. Cleri sempre in testa, ha sempre dettato il ritmo in questa 10 km, l'Urso ha provato sempre a stargli dietro. Staremo a vedere, Massimo, questi ultimi minuti decisivi. Sì, Dario, tra un attimo sentiamo anche le impressioni di Martina Grimaldi. Ieri sera la pallanuoto femminile ci ha regalato l'illusione, inizialmente con l'Ungheria, con un ottimo avvio, poi un finale decisamente deludente. Come hai visto la sfida del Sette Rosa? Chiaramente un Sette Rosa a due facce, un po' figlio della squadra che è stata allestita, che inevitabilmente, come abbiamo sottolineato spesso, è nel pieno di un cambio generazionale. I primi tre tempi veramente le azzurre hanno quasi sorpreso la piscina del Foro Italico per come hanno tenuto testa, e anzi sono state anche avanti all'Ungheria 5-3 con uno splendido gol di Tania Di Mario. Poi l'esperienza dell'ungherese, il fisico e anche un pizzico e qualcosa di più di nervosismo, perché percentuale bassissima con la superiorità numerica, vado a memoria, credo 2 su 15 gol realizzati rispetto alle opportunità avute, hanno segnato la partita, e a questo punto è decisiva la sfida per la Cina per avere un cammino un pochino più agevole, diciamo così, ma è comunque molto complicato verso i quarti di finale. Prima di sentire Martina Grimaldi, che tipo di mattinata è stata? Abbiamo visto anche un altro quarto posto, quello del sincro libero combinato per le italiane, con dichiarazioni anche molto pesanti da parte del CT De Renzis per il quarto posto. Furibonda ha detto: a noi non tocca mai, sembrava la nostra prestazione decisamente migliore di quella del Canada. Ci sono state anche altre dichiarazioni e altri umori che hai raccolto in queste ore? Ma devo dire, qui a Ostia chiaramente siamo rimasti tutti molto concentrati sulle gare del fondo. È inevitabile che sincronizzato, abbiamo sottolineato spesso, gli sport con le giurie si prestano inevitabilmente a questo tipo di polemiche. I meccanismi vengono sempre più affinati, cercando di escludere il giudice del paese ospitante dalle finali, calcolando in modo diverso le medie. Ma è chiaro che è un problema che rimane vivo, basti pensare a cosa accade di solito nella ginnastica, tanto per cambiare un attimo scenario. Sì. No? Sentiamo dunque Martina Grimaldi, raggiunta in mattinata da Dario Ricci dopo il terzo posto alle spalle di Payne e Seliverzova, poi l'ultimissimo aggiornamento sulla gara in cui si sta comportando benissimo Valerio Cleri. Ecco Martina Grimaldi. Oddio, proprio sono uscita che piangevo quando ho visto, cioè sono arrivata terza, ho visto anche tutti che esultavano così, ero proprio contentissima. Ho abbracciato il mio allenatore e sono scoppiata in lacrime perché anche a lui che devo anche questo risultato. E basta, sono contentissima, adesso non devo partire con la testa perché ho un'altra gara, forse più pesante, cioè ancora un po' più pesante di questa. E quindi adesso devo ricercare un po', ritrovare le forze e tutto. Quindi gara preparata anche sotto il profilo tattico nel migliore dei modi, Martì? Sì, quello sicuro, proprio sono migliorata perché di solito stavo molto indietro per cercare di risalire, però sapevo che facevo molta fatica a risalire, soprattutto qua a un mondiale in cui sono veramente tante le concorrenti. Quindi ho cercato sempre di stare davanti, il più vicino al gruppetto di testa, e perché volevo proprio viverla in prima persona anche questa gara. Questa volata raccontacela, perché abbiamo anche sognato l'argento. Lo so, anch'io ci speravo a un certo punto, però sono proprio arrivata stremata, ho detto toccato, va bene qualsiasi colore, argento, bronzo, per me è uguale, visto che è la mia prima medaglia, sono contentissima così. Io adesso dicevi la 25, quanta benzina vale questa medaglia per la prova più dura, più lunga? Tanta, soprattutto perché io gioco molto con la testa, la mia testa deve essere lì, perché se non c'è la mia testa proprio mi parte tutto. Però vale tanto, perché se fosse andata male mi sa che la testa proprio non c'era. Dario Ricci, velocissimo, la situazione è sotto controllo con Cleri sempre in prima posizione? Sì, Cleri anzi sta provando ad allungare, staremo a vedere, chiaramente vi aggiorneremo nelle edizioni del GR con le nostre breaking news sul risultato finale. Da sottolineare, importante ancora Massimo in chiusura, la dedica di Martina Grimaldi, sì, la sua medaglia dedicata alle soldati vittime e caduti nelle missioni di pace. Lei che è atleta del gruppo sportivo dell'esercito non ha voluto dimenticare questi suoi compagni, questi suoi colleghi, in un momento per lei di grandissima gioia. Giustissimo, hai fatto bene a ricordarlo. Grazie a Dario Ricci, a Flavio Suardi in redazione, Fabio Cantadori in regia. Torniamo domani con A Tempo di Sport, naturalmente con i mondiali di nuoto. A risentirci su Radio 24 da Massimo Callegari. Facile da scegliere e facile da avere è Nissan Pixo GPL, tu allo stesso prezzo del benzina, da 5.790 euro con rottamazione. Nissan Pixo, welcome to simplicity. Vi ha presentato Roma 2009.